Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17 e 8 minuti. Buonasera gentili ascoltatori, da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Sicuramente uno degli argomenti centrali di questa giornata economica e finanziaria è quello che sta avvenendo in questi minuti, ossia la conferenza stampa dopo il vertice tra Mario Monti e Angela Merkel. Di grandissime aziende, ma anche a livello di quel fittissimo reticolo di piccole e medie imprese di entrambi i nostri paesi. Sono convinto che questo sia uno dei terreni. E naturalmente quella che sentite è la voce del Presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa. Ci torneremo più avanti nella seconda parte del programma, dopo le 18, così avremo un quadro più chiaro di quello che si sono detti e soprattutto di quello che hanno detto alla stampa, e torneremo a fare il punto su questi benedetti e maledetti accordi di Bruxelles che, a quanto pare, dopo aver cantato vittoria, in realtà insomma non hanno ricevuto una vera approvazione definitiva. Ci saranno altri appuntamenti il 9 luglio e il 20 luglio. La Germania si sta tirando parzialmente indietro anche per problemi politici interni della signora Merkel, e cercheremo di capire e analizzare che cosa sta effettivamente succedendo. In apertura di trasmissione parleremo ancora invece di spending review, ossia di tagli della spesa. Spending review, tutti bravi a dire che c'è bisogno di tagliare la spesa, poi quando si tocca il proprio orticello naturalmente tutti a dire che insomma quella è proprio una parte che non va toccata. Comunque ci sono parecchi dettagli, tra l'altro il Sole 24 Ore se ne occupa oggi con 8 pagine di approfondimenti dove ci sono moltissimi dettagli, e domani tornerà ad occuparsene pubblicando la lista, tra l'altro, dei piccoli tribunali e dei piccoli ospedali che probabilmente verranno chiusi in forza appunto del taglio della spesa. Toccheremo questo tema, lo faremo con un esperto e ascolteremo anche l'opinione dei medici, soprattutto sul taglio degli ospedali. Accenneremo ai conti pubblici e poi avremo anche lo spazio naturalmente dedicato ai mercati. Mercati che oggi sono negativi, meno 0,95% il FTSE MIB, meno 0,88% il FTSE All Share, Parigi giù dello 0,2%, Francoforte dello 0,3%, Wall Street, lo ricordiamo, oggi è chiusa perché è festa, è il 4 luglio, Londra è quasi in pareggio, cede lo 0,01%, euro in netto indebolimento sul dollaro a 1,25,19. Di questo naturalmente parleremo appena ci sarà la chiusura dei mercati. Iniziamo come sempre dalle notizie in breve. Ovviamente il 349-238-6666, il numero di SMS per intervenire in diretta, e noi partiamo come sempre dalle materie prime con l'oro che è stabile a 1616,7 dollari l'oncia. Petrolio in calo anche nella giornata di oggi, il WTI, quello con consegna ad agosto, è 86,9 dollari al barile, un calo dello 0,87%, e il Brent, sempre con consegna agosto, in calo dell'1,01%, 99,6 dollari al barile. A proposito di Germania, oggi c'è stato un collocamento di titoli di Stato, titoli a 5 anni per 3,29 miliardi di euro. Il rendimento è stato dello 0,52%, un leggero rialzo rispetto allo 0,41% pagato il mese scorso. La domanda ha superato i 9 miliardi di euro rispetto ad un'offerta iniziale di 4 miliardi. Interviene il commissario agli affari economici e monetari Olli Rehn, che dice le misure antispread vanno varate a breve. Questo davanti alla plenaria, alla riunione plenaria del Parlamento europeo. Dobbiamo alleviare la sofferenza provocata dalle pressioni dei mercati, ha detto, con misure a breve termine, per ridare fiato ai paesi e permettere riforme che consentano risultati di lungo termine. C'è l'altra vicenda centrale in queste ore nel mondo dell'economia e della finanza ed è lo scandalo cosiddetto LIBOR, ossia che riguarda il tasso, quel tasso di interesse al quale le banche si prestano denaro l'una con l'altra e che è partito questo scandalo dall'Inghilterra. Cosa facevano queste banche? Tenevano artificialmente basso questo tasso che dovevano comunicare all'Unione Bancaria Britannica e lo tenevano basso per far sembrare che i loro bilanci fossero un po' meglio di come erano effettivamente, che ci fosse più fiducia nei loro confronti. Al centro di tutto in questo momento c'è Barclays, si sono dimessi tutti i vertici di Barclays e oggi Bob Diamond, l'amministratore delegato che ha lasciato giusto ieri, ha parlato di fronte alla Camera Britannica. Lo scandalo è raccapricciante e oltraggioso, intanto dice il premier David Cameron, mentre Diamond dice che l'attenzione si è concentrata sulla mia leadership e il sostegno dei regolatori, non è stato così forte come in passato, quindi per aiutare Barclays ho deciso di dimettermi. E dice anche che ha scoperto questo mese che il LIBOR era stato tenuto artificialmente basso. E ancora, si dice nauseato per uno scambio di mail tra i trader, che nel quale si faceva riferimento a questa manipolazione. Sono stato male fisicamente, non ci sono scuse per quel comportamento, è sbagliato e mi dispiace. Sembra sia stato in realtà piuttosto evasivo Diamond al momento sulla sua buonuscita, una buonuscita che potrebbe arrivare fino a 20 milioni di sterline. E poi un tira e molla a proposito di una telefonata della quale ci accennava ieri, se avete seguito la trasmissione, il corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, Leonardo Maisano, di una telefonata proprio tra Diamond e il vice governatore della Banca Centrale Britannica, Paul Tucker, questo il suo nome, una telefonata nella quale Tucker stesso avrebbe consigliato alla banca di manipolare il LIBOR. Si è detto oggi che c'era una registrazione di questa telefonata, ma la stessa Barclays ha poi smentito. Per venire all'Italia, oltre all'incontro tra Angela Merkel e Mario Monti, ci sono i dati sui conti pubblici nel primo trimestre, e sono brutti dati, nel primo trimestre del 2012 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è stato pari all'8% del PIL, in crescita rispetto al 7% dello stesso trimestre dell'anno precedente. Dati forniti dall'Istat, sono naturalmente dati grezzi, però insomma servono a dare un'indicazione. Nel primo trimestre la spesa è cresciuta dell'1,3%, le entrate sono scese dell'1%. Nel primo trimestre del 2012, il saldo primario, che è l'indebitamento al netto degli interessi, è risultato negativo. L'incidenza sul PIL è stata del -3%. E il deficit del primo trimestre, tra l'altro, è il dato peggiore dal 2009. Cosa pesa su questi conti pubblici? Beh, è quello che possiamo immaginare, che potevamo immaginare tutti. Comunque l'Istat lo spiega. In sostanza, paghiamo dei tassi di interesse più alti sul nostro debito, da una parte, e dall'altra parte ci sono meno entrate perché c'è la recessione. A proposito di recessione, ci sono i dati di Confcommercio, i consumi ancora giù, -0,9% da aprile, una flessione dello 0,9 appunto rispetto ad aprile in maggio e una riduzione del 2,3% sul 2011. E poi da segnalare naturalmente nella giornata di oggi anche le parole pronunciate in realtà ieri in tarda serata dall'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne, che dice: se le attuali capacità di assorbimento in Europa, per assorbimento si intende mercato, insomma quanto il mercato riesce a assorbire le macchine, resteranno uguali nei prossimi 24-36 mesi, c'è uno stabilimento di troppo in Italia. Se riusciamo a indirizzare la capacità produttiva verso l'America, questo problema scompare, ma abbiamo bisogno di tranquillità per produrre in Italia. Dove per tranquillità naturalmente Marchionne fa riferimento a questioni sindacali. Continueremo a confermare gli investimenti in Italia a seconda dell'andamento del mercato. Dice che non è mai stato così basso. Se avremo qualche cosa da dire su Mirafiori la diremo. Per ora continuiamo a confermare. E arriva anche notizia che i sindacati incontreranno Marchionne a fine mese. E veniamo al primo argomento di questa giornata, il primo argomento che affronteremo, ossia la spending review. Ci chiedete dello spread, avete ragione, la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, siamo a 430 punti in netta risalita rispetto a ieri. Veniamo dunque alla spending review. Mentre il presidente del Consiglio Mario Monti conferma che il taglio della spesa, la revisione della spesa in realtà, perché questa è la traduzione corretta, serve ad evitare l'aumento dell'IVA dal 1 ottobre, il Consiglio dei Ministri si prepara ad esaminare un decreto domani pomeriggio alle 17. La cosa che ha fatto più discutere, ne abbiamo parlato a lungo nei giorni scorsi, il taglio del 10% ai dipendenti pubblici e del 20% dei dirigenti. Dice Monti: non taglieremo i servizi ma gli sprechi, non useremo l'accetta. Ma dentro a questo decreto, a come si prospetta il decreto, almeno c'è molto di più. Saluto il professor Gustavo Piga, docente di politica economica all'Università Tor Vergata di Roma, che tra l'altro dal 2002 al 2005 è stato presidente della Consip, che è la società del Ministero dell'Economia che serve nella sostanza, la dico molto brutalmente, a razionalizzare la gestione della spesa pubblica e che fungerà da centrale per le gare d'acquisto. Professor Piga, buonasera. Come sta? Buonasera. Bene, tutto bene, grazie. È tutto bene, dopo quello che abbiamo sentito non possiamo dirlo né io né lei, mi sa. No, è dura. No, è dura, però insomma forse dal lato della spesa si può fare qualcosa, e proprio venendo a quello che è stato il suo ruolo, mi sembra che forse la cosa più interessante è questo obiettivo di centralizzare, il che sembra quasi un paradosso visto che abbiamo parlato di federalismo fino all'altro ieri, questo obiettivo di centralizzare una parte della spesa pubblica per evitare sprechi. Guardi, è tutto molto molto complesso. Io credo che la Consip tra l'altro abbia imparato dai nostri errori di allora, e bisogna sempre tener conto che quando ci si muove su questi campi bisogna stare attentissimi agli effetti di rimbalzo che si creano. Noi per esempio fummo un disastro tra il 2002 e il 2005 quando facemmo queste gare enormi pensando di ottenere grandi risparmi, e senza contare che avremmo affossato tutto il territorio delle piccole imprese e quindi ridotto la capacità del sistema di essere concorrenziale. Per fortuna ci bloccarono allora, ma questa lezione che Consip ovviamente ha imparato, adesso le gare comunque le fa più piccole, bisognerebbe un po' riportarle alla giornata di oggi, ai mesi di oggi, a questa settimana dove stiamo decidendo, per stare estremamente attenti al contesto in cui ci troviamo. Tutti i dati che ha dato lei sono spaventosi. Io parto da un punto su cui mi trovo in fortissima condivisione col presidente di Confindustria, lo dico da mesi, sono contento che finalmente ci siamo arrivati. È vero, è assolutamente vero che la madre di tutte le riforme è quella della pubblica amministrazione. anche perché se ci abbiamo una palla al piede rispetto a Stati Uniti, Francia, Germania, Inghilterra e il nostro export non tira quanto loro, è perché uno dei fattori di ritardo sulla produttività è che la nostra pubblica amministrazione non funziona tanto bene quanto funzionano bene le pubbliche amministrazioni di quei paesi. Quelli sono paesi che hanno accanto al sistema privato una pubblica amministrazione forte al loro servizio. Allora è da questa madre di tutte le riforme che bisogna partire, cercando di trovare il modo non di buttar via la pubblica amministrazione, ma di farla diventare quel volano di supporto al sistema privato che è in tutti questi altri paesi. Io le dico soltanto, le prendo un esempio, la spending review inglese, che è quella fatta meglio in tutti i paesi. Mi perdoni professore, la interrompo, però questo è frutto da una parte sicuramente di provvedimenti legislativi, ma probabilmente ci vuole un cambio culturale vero e proprio all'interno della stessa pubblica amministrazione, perché non si risolve solamente con una legge questa cosa. Bravissimo. Questo è il problema, è che noi facendo le cose rapidamente, lei si ricorda quando nel 92 per abbassare il debito facemmo tutte quelle privatizzazioni? Cosa è successo? Ci siamo resi conto 5 o 6 anni dopo che magari se non correvamo come dei pazzi, avessimo fatto prima le liberalizzazioni e poi le privatizzazioni, il nostro sistema economico sarebbe stato molto più vibrante. Stessa cosa adesso, se noi cominciamo coi tagli prima di riorganizzare e cambiare la cultura, io ho il grande timore che andiamo a buttare insieme all'acqua sporca anche il bambino. Quando io sento dire eliminare gli sprechi senza ridurre i servizi, e guarda cosa fanno gli inglesi da anni, che dicono la stessa cosa, ma facendo capire, si dice framing, è dire la stessa cosa ma in un modo diverso. Loro questa cosa, eliminare sprechi senza ridurre i servizi, la rigirano e dicono aumentare i servizi, e Dio sa se ce ne abbiamo bisogno di aumentare la qualità dei servizi in Italia, premiando gli sforzi. Lanciare un messaggio positivo di questo tipo vuol dire influenzare anche il modo in cui si farà la riforma della pubblica amministrazione. Io ne ho mille di cose che mi vengono in mente, ma la prima è di semplicemente citarle quanto è uscito fuori, che magari non si sa, durante l'ultima riunione del Centro Studi di Confindustria, la presentazione del rapporto, dove è uscita fuori questa slide correttissima che ci fa vedere la percentuale di dipendenti pubblici sulla popolazione in Italia e nel resto d'Europa. Beh, lei lo sa che i nostri dipendenti pubblici sono il 6% della popolazione, cioè uno dei livelli più bassi. Adesso sto cercando, mentre le parlo, il dato sull'area dell'euro per paragonarci. Ecco, l'area dell'euro come dato, non lo trovo, 6% in Italia, 7,5% negli Stati Uniti, 9% nel Regno Unito, 10% in Francia. La Germania è poco sotto di noi al 5,3%. E abbiamo la più vecchia pubblica amministrazione come età di tutti i paesi occidentali. Non è vero che abbiamo tanti dipendenti pubblici, ce ne abbiamo, ci dice Confindustria, pochi e molto vecchi. Allora anche qui chiediamoci, è veramente il caso di ridurre il numero dei nostri dipendenti pubblici o di trovare il contesto per farli lavorare meglio? O ragionare sul turnover? Assolutamente sì, ma per esempio ragionare col turnover vuol dire mettersi al tavolo con i sindacati. I sindacati si hanno un'enorme responsabilità in questi anni, non è tanto sul settore privato, perché sul settore privato hanno sentito forse un po' meno dei sindacati tedeschi la pressione della globalizzazione e hanno lavorato con le imprese per stare attenti alla moderazione e alla produttività. Nella pubblica amministrazione il sindacato ha grandi responsabilità, non ha mai voluto affrontare per esempio la questione importantissima dei differenziali salariali all'interno della pubblica amministrazione tra sud e nord. Lei sa che la vita è molto più cara al nord che al sud, no? Però i salari sono gli stessi. Allora cosa vuol dire? Che il costo del salario della pubblica amministrazione al sud è molto più alto che al nord, rigirata. Chi va a lavorare nella pubblica amministrazione al sud guadagna molto di più. E quindi lei che pensa che faranno i giovani ragazzi che stanno al sud? Cercheranno lavoro nelle imprese? Assolutamente no. Si mettono in coda per trovare un posto di lavoro nella pubblica amministrazione al sud. Metterci a discutere adesso di parlare di differenziali salariali tra nord e sud nella pubblica amministrazione sarebbe importante, come sarebbe importante che il sindacato riconoscesse finalmente la questione delle premialità. Sì, poi a proposito di sud o nord, questo è un tema che abbiamo già toccato tra l'altro lunedì con il professor Dell'Aringa, perché ci scrivono gli ascoltatori, ma avete avete preso in considerazione anche la regione Sicilia in questi dati. Ecco, quello certamente è un problema. Quello che ci diceva il professor Dell'Aringa l'altro giorno, giustamente dice che in parte del Mezzogiorno il lavoro pubblico è stato un ammortizzatore sociale, che è una maniera distorta di intendere l'impiego pubblico, però così è stato. Guardi, lo ha detto Cirino Pomicino in maniera chiarissima sul Messaggero 5-6 mesi fa. Negli anni 80 ci riunimmo col PC, avevamo paura che ci saltasse la polveriera del Sud insieme alle Brigate Rosse e decidemmo a tavolino di aumentare la spesa pubblica del Sud anche via assunzioni e stipendi. L'ha detto in maniera molto onesta e molto corretta. Benissimo, prendiamone atto, il debito pubblico è anche nato in quegli anni, prendiamo atto che il contesto adesso è molto diverso e quindi questo sforzo, questo cambiamento lo possiamo fare. Tra l'altro le premialità, ma io le assicuro che per dare un 9 in pagella su 10 a un dipendente, ricordo esempi chiarissimi al Ministero dell'Economia qualche anno fa, a un dipendente che sta fermo a leggere il giornale tutto il giorno, i dirigenti avevano delle difficoltà mostruose a dargli 9 su 10 perché il sindacato avrebbe piantato una grana. Allora, il sindacato si deve rimettere in gioco, certo, allo stesso tempo noi non dobbiamo andare a provocare il sindacato, perché se noi andiamo in questo momento a parlare di tagli al personale in una recessione, vorrei ricordare i dati di Confindustria, -2,4% del prodotto interno lordo nel 2012. Se lei in questo momento va a tagliare i dipendenti pubblici e tagliare la spesa lì, la nostra economia si incarta. A me mi viene un po' da ridere quando sento dire noi tagliamo la spesa per non aumentare le tasse. Qualsiasi macroeconomista sa che i tagli della spesa sono addirittura più recessivi in questo tipo di recessioni dell'aumento delle tasse. Quindi non è il momento per giocare, tra l'altro tagli lineari, abbiamo detto tagli lineari mai più, a me sta bene, però tutto quello che leggo in questo momento, compreso il fatto che tagliamo del 5% il valore dei contratti in vigore, soprattutto nella sanità, a quelle imprese che vengono pagate con 300 giorni di ritardo, mi sa tanto di taglio lineare. Sì, vorrei che devo dire un'enfasi di lungo periodo. Sì, devo dire che su questo anche ci sono molti dubbi, perché anche per esempio il taglio degli ospedali pensato com'è in questo modo, ossia tutti gli ospedali sotto gli 80 posti letto li taglio, è un taglio lineare a tutti gli effetti, perché non si vede quale bacino di popolazione afferisce, dove si trova quell'ospedale, perché magari si trova sperduto sopra una montagna dove è l'unico luogo raggiungibile per una serie di paesini dei dintorni. Ci sollecitano gli ascoltatori, poi su questo ascolteremo un'intervista, ci sollecitano gli ascoltatori ad approfondire questa questione della spending review inglese. Abbiamo pochissimo tempo, ci può fare un esempio, professore? Ma guardi, le faccio l'esempio del governo più conservatore e più antispesa pubblica che ci sia, cioè il governo Cameron. Governo Cameron, se lei si legge la spending review del governo Cameron, le prime 4 pagine sono: ecco dove aumenteremo la spesa pubblica nei prossimi 3 anni nei settori che il governo conservatore antispesa ritiene strategici, e quindi escono fuori gli asili, le scuole e gli ospedali. Poi, le pagine successive, si dice ecco dove troveremo i fondi, tagliando lì i rami secchi, per finanziare questo aumento di spesa. Io le faccio solo un esempio mio, a casa mia. Noi abbiamo un obiettivo 2020, si chiama Europa 2020, dove tutti i paesi d'Europa devono avere che le persone tra 30 e 35 anni nella popolazione di un paese, il 40% deve essere laureato. Alcuni paesi hanno già superato il 40%, l'Italia è 24esima su 27 paesi dell'Unione Europea col 18% di persone laureate. Ora, se noi sappiamo qualche cosa è che sicuramente un legame tra livello di istruzione e competitività di un paese c'è, quindi ovviamente noi ci siamo messi, abbiamo detto adesso aumentiamo il numero di laureati in breve tempo. Quando mi esce fuori che nelle proposte che leggo oggi sul Sole 24 Ore aggreghiamo, fondiamo le piccole università, riduciamo il numero delle università, io mi metto le mani nei pochi capelli che mi restano, perché se c'è una cosa che sappiamo, che in questo momento se vogliamo triplicare il nostro numero di laureati abbiamo bisogno di una marea di piccole università sparse sul territorio che diano quelle competenze necessarie, minime, non di grandi ricercatori. Le grandi università per i grandi ricercatori già ce l'abbiamo. Abbiamo bisogno che quelle competenze minime, perché la gente quando va in impresa L'impresa non deve spendere soldi per formare quel dipendente. Chiarissimo, professore, la sua posizione è chiara, può come dire, non essere condivisibile, in effetti alcuni ascoltatori non la condividono. Ultima domanda, e le chiedo di essere brevissimo, però alla fine i lavoratori pubblici, gli inglesi, li hanno tagliati, non è che non li hanno tagliati, o no? Ne hanno più, ripeto, di noi, in percentuale della popolazione sono il 9,2% dati Confindustria. Bisogna stare molto, e l'Italia dato il 6%, bisogna stare molto attenti. Il vero problema non è tanto il 9 o il 6, è che sono molto molto più produttivi. Ma sa perché sono molto molto più produttivi? Io mi occupo di appalti pubblici, per esempio. Le persone che fanno gli appalti pubblici in Inghilterra sono strapagate se fanno bene. Gli danno dei raddoppi di stipendio perché portano a casa, facendo gli appalti bene, tali e tanti risparmi alla pubblica amministrazione che questi si sentono motivatissimi, la loro produttività è alta e ovviamente quelli meno bravi sono pagati di meno. Se la sente il sindacato di mettersi a lavorare in questa direzione, ce la fa il governo a dire aspettiamo un attimo, facciamo una riforma intelligente che premia il merito nella pubblica amministrazione? Con un governo Monti di questo tipo non vedo il problema, non c'è problema, il governo Monti ha le capacità per fare le riforme. Se corriamo troppo rischiamo, ripeto, in un momento di recessione gravissima, di distruggere l'economia e incartare anche i conti pubblici con un crollo ulteriore delle entrate. Di nuovo buonasera da Simone Spezia, benvenuti alla Focus Economia, la seconda parte di questa prima ora della trasmissione. Vedo molti messaggi, anche parecchio critici nei confronti del professore che abbiamo ospitato poco fa, Gustavo Piga, docente di politica economica all'Università Tor Vergata di Roma. Avete sentito, ha un'impostazione ben precisa, insomma, ci permettiamo di ospitare opinioni diverse. A proposito dei numeri, ci dite il 6%, ma che film ha visto? Il 6%, dice il professore, è la percentuale di dipendenti pubblici sulla popolazione italiana. Guardate che effettivamente la percentuale è quello, siamo 60 milioni di cittadini, se i dipendenti pubblici sono 3 milioni e mezzo, quello è, non è molto lontana. Chi dice invece che bisognerebbe calcolarlo il numero, sul numero di lavoratori, è un dato che vi abbiamo dato lunedì parlandone col professor Della Ringa, è anche là siamo in media europea, anzi lievemente sotto, un 15% in Europa contro un 14,3% in Italia. Il problema però è sempre quello, è una questione di efficienza, cioè possono essere anche 6 milioni, ma dipende da come lavorano, se funzionano meccanismi di premialità, come per esempio ci raccontava il professore poco fa a proposito di quello inglese, che mi sembra molto interessante. E poi sicuramente, come invece diceva il professor Della Ringa l'altro giorno, i margini per ridurre i dipendenti pubblici ci sono evidentemente, però appunto bisogna lavorare sull'efficienza. A proposito della questione tagli lineari, non tagli lineari, il tema, la questione degli ospedali, gli ospedali sotto gli 80 posti letto, c'è quindi questa ipotesi di riduzione nell'ambito del decreto sulla spending review. Ebbene, Anna Marino ha intervistato Domenico Iscaro, presidente della NAO Assomed, che è il sindacato maggiormente rappresentativo di medici e dirigenti ospedalieri. Rispetto a questi tagli siamo molto sconcertati, perché ci sentiamo riproporre una terapia che da anni viene ventilata, in alcuni casi in molte regioni applicata anche con i piani di rientro, senza che però se ne vedano effetti benefici, anzi tutt'altro, vediamo la sanità sempre più messa a dura prova, sempre più meno in grado di assolvere al proprio problema di tutela della salute. Quali alternative? È vero che bisogna intervenire su un contenimento della spesa, ma va fatto attraverso processi di razionalizzazione. Le faccio un esempio: tagliare posti letto così, senza che però ci sia un'adeguata ristrutturazione e riorganizzazione della rete territoriale, non produce nient'altro che un vuoto assistenziale, per cui il cittadino, non avendo una struttura territoriale adeguata a cui rivolgersi per domande di bassa complessità, si rivolge agli ospedali. Allora si intasano i pronto soccorsi, si allungano le liste attesa sugli ambulatori. Ecco, il posto letto di per sé, preso come esempio di riduzione di spesa, è profondamente sbagliato. I numeri che sono prospettati per i tagli, secondo voi? Noi abbiamo dal 2000 al 2009 registrato, dati ISTAT, passati al Ministero della Salute, 45 meno posti letto in meno. Questo che cosa ha prodotto? Niente, perché il debito non ha fatto nient'altro che ampliarsi, ha prodotto disagio per i cittadini. Riproporre oggi il taglio dei posti letto, quando l'Italia è il paese che è al 24esimo posto nei paesi OCSE, quelli con minor numero di posti letto, siamo sotto la media europea è 5,6 posti letto per 1.000 abitanti, noi siamo a 3,7 posti letto per 1.000 abitanti. Non è quello il problema. Se noi continuiamo a toccare i posti letto senza incidere sulla vera riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a partire, ripeto, da una ristrutturazione del rapporto ospedale-territorio, noi non facciamo nient'altro che produrre disagio per i cittadini. Quindi bisogna vedere le strutture che funzionano e quelle no? Benissimo, esattamente. Per esempio, dire chiudere i piccoli ospedali, siamo assolutamente favorevoli. Il piccolo ospedale sotto 120 posti letto in realtà non serve. Lì dove è stato possibile riconvertirli, qualche beneficio c'è stato, cioè invece gli ospedali si fanno strutture territoriali, ambulatoriali o residenze per anziani. Lì dove non è stato ancora fatto è perché c'è una resistenza della politica, ci sono le resistenze localistiche, il piccolo comune che vuole conservare il suo ospedale. Ecco, è una visione, diciamo, miope, ma noi siamo favorevoli a questo, soltanto che riproporlo oggi, quando è già stato ampiamente fatto, sembra di proporre una minestra già ampiamente utilizzata. Questa è la posizione dei medici, che come avete sentito è abbastanza morbida, perché in realtà c'è si è abbastanza favorevoli appunto al taglio dei piccoli ospedali, con la conversione naturalmente in ambulatori. Spiace che non sia firmato questo messaggio, che a livello di analisi è perfetto. Questo sms è arrivato al 349-238-6666. La pubblica amministrazione non è produttiva per competenze confuse, mancanza di obiettivi reali, controlli di produttività inesistenti e procedure confuse e burocratizzate all'ennesima potenza. Qualche altra reazione a proposito di revisione della spesa. Innanzitutto sull'ipotesi che salga dal 35 al 50% la quota a carico delle aziende farmaceutiche dell'eventuale sforamento del tetto appunto della spesa farmaceutica nazionale. Bene, dice Farmindustria, i tagli imporranno la chiusura degli impianti. Comprimere ulteriormente la spesa farmaceutica renderebbe insostenibile continuare a produrre in Italia, con la conseguente chiusura di impianti produttivi nel paese e la perdita della capacità di esportare. Con le reazioni politiche, o meglio, continuiamo con le associazioni. Il CSM, allarme del CSM per la chiusura dei piccoli tribunali, con i tagli le indagini sono a rischio. In particolare ci si riferisce alla soppressione dei magistrati di collegamento, una figura nata su sollecitazione di Giovanni Falcone con l'obiettivo di rendere più efficace la cooperazione giudiziaria. Il SAP, il sindacato di polizia, chiede che non ci sia un taglio agli organici che riguardano la sicurezza. Dal lato politico, Pierluigi Bersani del PD chiede di non indebolire le prestazioni sociali. Dal lato sindacale, Susanna Camusso, si può tagliare allo stesso modo i dipendenti del Ministero dell'Economia, i vigili del fuoco, gli infermieri di un ospedale o i poliziotti, e quindi attacca ancora da questo lato, dal lato delle prestazioni sociali. Molte reazioni naturalmente anche dagli enti locali. Vi leggiamo questa perché insomma è anche particolare come espressione. Roberto Formigoni su Twitter: si discute di tagli, sacrosanto abbattere la spesa, ma non tagli lineari che puniscono chi è già virtuoso. Sbagliato tagliare ad cazium. Borsa che chiude negativa, ma non sui minimi di giornata. Meno 0,78% sul FTSE MIB, meno 0,72% sul FTSE All Share. Parigi giù dello 0,11%, Francoforte dello 0,20%, Londra anche giù dello 0,20%. Wall Street, lo ricordiamo ancora una volta, è chiusa per festività nazionale. Ceo Condina, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Che giornata è stata? Ma diciamo una giornata tutto sommato di attesa, nervosa per i listini in vista di domani, quando ci sarà questa riunione, questa sì davvero attesa della Banca Centrale Europea, che potrebbe, in questo caso non ci sono certezze, tagliare nuovamente i tassi di interesse europei, che attualmente, ricordiamolo, sono già ai minimi storici, cioè all'1%. Ricordiamo anche che i listini venivano da 3 sedute di rialzi consecutivi, che erano anche in virtù di quello che tutti hanno definito lo scudo anti-spread, rialzi di cui avevano beneficiato i titoli finanziari e bancari, che infatti oggi sono stati quelli su cui si sono concentrate maggiormente le vendite. Sì, in effetti Intesa San Paolo giù del 3,11%, Azimut del 2,76%, la Popolare di Milano del 2,6%, la Popolare Emilia Romagna del 2,5%, Banco Popolare del 2,29%. Tra i titoli in negativo troviamo Buzzi, meno 2,28%, ma veniamo da due sedute positive, CEO, no? Sì, sì, ieri soprattutto Buzzi aveva guadagnato con tutto il comparto del cemento europeo, abbiamo visto dei rialzi significativi anche per la francese Lafarge. Oggi insomma qualche realizzo che vediamo anche poi su quella che è la peggiore delle cosiddette blue chip in pregilo, meno 3,1%, ma questo è un titolo molto caldo in vista dell'assemblea che nei prossimi giorni deciderà di fatto il controllo del gruppo, conteso dai Gavi e da Salini, e quindi anche qui c'è stato qualche piccolo realizzo. Ottimamente invece Mediaset più 5,42% dopo la pessima performance di ieri, quella di ieri dovuta a un allarme sul mercato pubblicitario, se non erro. Oggi invece si parla di possibili partnership. Sì, diciamo che ieri era per il mercato pubblicitario, non solo ieri si potrebbe dire, perché negli ultimi mesi, da inizio anno l'azione ha perso il 33% e poi nelle ultime settimane aveva più volte testato i minimi storici. Come dicevi giustamente tu, oggi invece il titolo è stato spinto da questa ipotesi, di fatto poi anche ammessa pubblicamente dal vicepresidente Pier Silvio Berlusconi, di una possibile partnership nella Pay TV, un'alleanza che a Mediaset servirebbe, visto che questo business si è dimostrato in forte difficoltà nel 2011, mostrando perdite superiori a 68 milioni di euro. Chi potrebbe essere il partner? Beh, su questo non ci sono ancora certezze. Oggi il Sole 24 Ore riportava, tra i gruppi in contatto con Mediaset, i tedeschi di RTL e gli arabi di Al Jazeera. Questo è il quadro per quanto riguarda Mediaset, ma c'è un altro titolo che fa molto bene oggi ed è Fiat, un più 4,79%, tra l'altro è il secondo giorno consecutivo. Eh sì, Fiat non vende in Italia, perché questo è un dato di fatto, però vende negli Stati Uniti e vende molto bene anche in Brasile. Infatti a giugno Chrysler ha visto crescere del 20% rispetto all'anno scorso le vendite negli USA, a quasi 150.000 unità. In Brasile le vendite di auto e commerciali leggeri sono aumentate del 22%, quindi insomma due mercati molto proficui per il gruppo, e la borsa ha festeggiato. Bene anche Ansaldo, più 3,27%, e Atlantia più 2,25%, l'ipotesi tariffe che cade, no? Eh sì, ieri è durata mezza giornata l'ipotesi del blocco delle tariffe, non era neanche la prima volta che circolava un'ipotesi di questo genere. Comunque nel dubbio ieri gli operatori avevano servito i titoli di Atlantia, che ovviamente controlla Autostrade per l'Italia, che è il principale operatore autostradale italiano, quindi nel caso di un blocco delle tariffe ne avrebbe risentito. Avevano servito anche i titoli delle principali utility, tra cui Enel, che oggi ha recuperato, come Atlantia, o come Snam, che oggi guadagna lo 0,4%. Bene, Autogrill, e i motivi sono un paio da quel che mi sembra di capire, no? Sì, come mai? A maggio, Autogrill a maggio ha goduto del fatto che è aumentato il numero dei passeggeri dello 0,2% negli scali americani. Autogrill fa molto business negli Stati Uniti, quindi un aumento dei passeggeri sicuramente aumenta anche i ricavi del gruppo. Dall'altra parte poi c'è l'esito, che sembra ormai scontato, della gara per lo scorporo del duty free di ADR, cioè degli aeroporti di Roma. Autogrill era in gara con la controllata Aldeasa, questa gara l'ha persa perché se la sono aggiudicati i francesi di ALA, offrendo quasi 230 milioni di euro. In questo caso il mercato ha premiato il mancato esborso da parte dell'acquirente, cioè Autogrill. Questo per Autogrill, mi sembra che altre storie di borsa oggi non ce ne siano in particolare, cioè, o no? No, diciamo legata all'ultima cosa che ci siamo detti, c'è Gemina che controlla DR, ha venduto appunto i duty free a 230 milioni, si stimava un incasso di 150 milioni, quindi un incasso ben superiore alle attese, infatti Gemina ha corso in borsa, ha guadagnato il 5%. Grazie a Ceo Condina di Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, buonasera. Allora, l'euro quota 1,25 e 2 contro dollaro. Ci chiedete dello spread. Lo spread, ossia la differenza di rendimento tra titoli di Stato italiani e tedeschi a 10 anni. Siamo a 432 punti, quindi in nettissima risalita rispetto ai 410. Poi, se non erro, la chiusura di ieri era stata addirittura 407 punti, appunto di ieri. Il fatto è dovuto tanto a un rialzo ai rendimenti dei titoli di Stato italiani, che sono al 5,76%, quanto a un calo del rendimento dei titoli di Stato tedeschi. Oggi hanno piazzato titoli in asta, però a 5 anni, con un rendimento in lieve rialzo, come si diceva prima, ma lievissimo, allo 0,51%. Cala invece il rendimento per quanto riguarda i decennali tedeschi. Bund all'1,45% in questo momento. Le 18 e 7 minuti, di nuovo buonasera da Simone Spezia, benvenuti alla seconda parte di Focus Economia. Adesso finalmente affrontiamo le questioni europee. Obiettivo di oggi dell'incontro tra Mario Monti e Angela Merkel era anche ritrovare un po' di feeling dopo un vertice a Bruxelles che, stando a molti retroscena, ma anche a quello che plasticamente abbiamo visto con Spagna e Italia che insomma decidono di bloccare tutto, di mettere la riserva per finché non hanno ottenuto lo scudo antispread, ebbene, era modo per ritrovare un certo coordinamento. Parla di ottime relazioni con la Germania di Angela Merkel da parte del Presidente del Consiglio, si conferma la determinazione al risanamento, si toccano anche i temi italiani come appunto la spending review. Noi e la Germania, dice Monti, siamo i più aperti a condividere la sovranità. Saluto, è in collegamento con noi da Bruxelles Adriana Cerretelli del Sole 24 Ore. Adriana, buonasera. Buonasera. Ascolteremo più avanti la voce del Presidente del Consiglio nella conferenza stampa. Intanto vorrei fare un punto con te, a partire anche dal bel commento che hai scritto oggi sul quotidiano in prima pagina. Ed è un po' su questo continuo passo avanti e passo indietro dell'Europa, perché ci sembrava venerdì mattina che, insomma, non che tutto fosse risolto, ma che appunto si fosse fatto un grande passo avanti. In realtà poi, anche a causa di tensioni politiche interne, tedesche in particolare, e all'avviarsi di una serie di paesi verso le elezioni nel 2013, le cose sembrano essersi bloccate. La Germania, o quantomeno la signora Merkel, si è irrigidita di nuovo. Sì, si è irrigidita di nuovo, ma soprattutto l'opinione pubblica tedesca, che è molto rigida, insieme ai giornali che al termine del vertice hanno lanciato contro la Merkel una salva di commenti assolutamente negativi, ha perso, è stata messa con le spalle al muro e certamente, diciamo, un anno delle elezioni, questa non è un buon incentivo a, diciamo, insistere sulla politica europea della solidarietà, dei salvataggi. Abbastanza così incisiva la dichiarazione del leader della CSU, che è l'alleato della Merkel insieme ai liberali, che ha detto: non possiamo continuamente dire di sì, basta con i salvataggi, con chiaro riferimento alle decisioni prese al vertice, quindi salvataggi delle banche spagnole con riforma della legislazione europea abbastanza radicale e poi meccanismo anti-spread per l'Italia. Ora, naturalmente questo fa parte un po' del gioco delle parti, delle polemiche che seguono in Europa qualsiasi decisione, ma non c'è dubbio che questa atmosfera non favorirà o perlomeno complicherà i negoziati che ci saranno il 9 di luglio tra i ministri dell'Eurogruppo, proprio per mettere in atto le diciamo in bella coppia messe giù come regolamenti le decisioni del vertice, che invece sono stati ovviamente degli accordi di massima. Ecco, Adriana, si dice, adesso non mi ricordo se addirittura l'hai scritto tu, che il diavolo si nasconde nei dettagli in riferimento a questa situazione. La riunione del 9 luglio da questo punto di vista può essere dirimente. Secondo te si rischiano passi indietro vista la situazione politica tedesca? Ma certamente nessuno ci farà dei regali, però io credo che diciamo il salvataggio tra virgolette dell'Italia, perché non siamo ancora a livello del salvataggio, ma certamente se gli spread continuassero ad aumentare ci ritroveremmo in una situazione finanziaria molto difficile, cioè con un onere dei tassi di interesse che diciamo a poco detronizzerebbe tutti i risparmi che abbiamo trovato attraverso riforme sicuramente pesanti, eccetera. Quindi io penso che in ultima analisi anche i tedeschi alla fine si metteranno a ragionare. Mi preoccupano ovviamente di più i tedeschi, degli olandesi, dei finlandesi, che naturalmente sono i soliti che remano contro qualsiasi accordo che preveda un minimo di solidarietà. Dico i tedeschi proprio perché c'è questo sentimento nella loro opinione pubblica, questa insofferenza verso l'Europa, verso questi paesi del sud che ci costano, che non lavorano come noi, eccetera, che tra l'altro sono abbastanza delle chimere, perché non è vero che il sud non si riforma, tutti si riformano, solo la Grecia è in ritardo, ma tutti sono sulla buona strada delle riforme. Non è vero che al sud non si lavora, semplicemente bisogna riformare certi meccanismi, appunto il mercato del lavoro, il recupero di competitività, legare i salari alla produttività, tutte indicazioni che vengono dall'Europa e che man mano vengono messe in atto. Però tutte queste sono delle scuse che alimentano i pregiudizi negativi che molto spesso al nord si hanno verso i popoli del sud, e questo naturalmente non favorisce. Detto questo, però, è ovvio che lasciare che l'Italia venga schiacciata dalla speculazione dei mercati quando fa la sua parte, il suo dovere, beh, questo mi sembrerebbe anche da parte della Germania un po' stupido, perché se si può immaginare che la Grecia esca, se si può immaginare di governare la destabilizzazione di piccoli paesi come l'Irlanda e il Portogallo, certamente è difficile immaginare la stessa cosa con la Spagna, ma è praticamente impossibile se andasse di mezzo l'Italia. Proprio per questo io penso che alla fine il buon senso prevarrà. Quindi sei convinta che alla fin fine questo, lo scudo antispread nella sua essenzialità, per come è stato definito nel vertice di, a questo punto chiamiamolo, di giovedì notte, perché effettivamente questo è stato, non possa saltare, cioè sia difficile che salti? No, io credo che non salterà. Quello che potrà succedere è che mettano delle condizioni più onerose di quelle concordate da Monti, o che perlomeno ci provino. In sostanza, Monti che cosa ha concordato? Ha concordato una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse del Fondo Salva Stati. Come? Allora, già attualmente il fondo prevedeva la possibilità di acquistare un mercato primario e secondario i titoli di Stato dei paesi, diciamo, sotto attacco, che però fossero virtuosi. Ma per questi paesi virtuosi, Monti dice, potranno accedere, e ha ottenuto, no, nel suo compromesso politico, potranno accedere agli aiuti dei fondi salva stati senza ulteriori condizioni punitive, cioè senza un aggravio di riforme, tagli delle spese, eccetera, eccetera, rispetto a quelli concordati. Questo perché? Non per la nostra bella faccia, ma semplicemente perché siamo in linea con la tabella di marcia concordata a Bruxelles, all'Eurogruppo, eccetera, sulla strada delle riforme e degli aggiustamenti strutturali e dei conti. Per questo dice, non è accettabile che il Paese venga, diciamo, commissariato, fatto oggetto di missioni della Troica, perché appunto è in linea quello che naturalmente si prevede, è che il rispetto strettissimo e sotto stretta sorveglianza delle condizioni concordate con Bruxelles. Cosa ha detto Angela Merkel poco fa? Dice da Monti, riforme fondamentali in tempi rapidi. Abbiamo parlato di come rafforzare la crescita e anche nella chiave, anche in chiave di quello che ci diceva poco fa Adriana Cerretelli. Se i vicini europei sono in crisi, dice Merkel, anche la Germania avrà problemi. Siamo decisi ad affrontare insieme le difficoltà della crisi della zona euro. E al vertice europeo ci sono state soluzioni soddisfacenti per tutti. Ciò che conta per me è che gli strumenti elaborati dal vertice europeo vadano avanti su regole già in vigore, aggiunge Merkel, e dice collaboriamo molto bene con Monti e il suo governo, abbiamo bisogno di tale intensità di scambio ed è necessario rafforzarla giorno per giorno, siamo tutti, quindi non sta parlando solamente all'Italia, operosi e diligenti. Iniziamo a sentire anche quello che ha detto il Presidente del Consiglio, Mario Monti, che dice: ho confermato ad Angela Merkel la nostra determinazione a risanare i conti pubblici. Come sapete, questo incontro è bilaterale e include diversi membri dei rispettivi governi, quindi è un'occasione molto utile per intensificare lo stato delle già ottime relazioni economiche e politiche bilaterali tra la Repubblica Federale Tedesca e l'Italia. Ho confermato alla Cancelliera la determinazione, che già conosce e credo apprezzi, con cui il governo italiano intende proseguire sulla strada del contenimento di bilancio, della disciplina fiscale, delle riforme strutturali e in prospettiva della crescita, ponendo oggi le premesse per una crescita in un domani, speriamo, non troppo lontano. Italia e Germania, dice ancora Monti, sono i paesi più disposti ad una condivisione di sovranità in ambito europeo, se questo vuol dire avere strumenti di politica economica più efficaci. E aggiunge Monti, i pregiudizi sono il maggiore ostacolo all'integrazione dell'Unione Europea. Credo che i nostri due paesi siano tra quelli più disposti ad andare verso una condivisione di sovranità a livello comunitario, un'ulteriore condivisione di sovranità, se questo può voler dire strumenti di politica e di politica economica più efficaci per portare l'intera Europa, fermo restando che ognuno deve fare i compiti a casa propria, come si suol dire, ma politiche europee che possano portare l'intera Unione Europea ad un livello di competitività nel quale la Germania è un esempio illustre e a un livello di presenza sull'economia globale che torni a dare sicurezza ai cittadini europei e ci aiuti tutti a superare quegli stereotipi, quei pregiudizi che sono sempre latenti nelle nostre opinioni pubbliche e che possono costituire il fattore dirompente più negativo e il maggiore ostacolo all'ulteriore progresso dell'integrazione europea. Tra l'altro, Monti ha rilasciato un'intervista al Frankfurter Allgemeine Zeitung, la FAZ. Chiedere aiuti finanziari significa di fatto camuffare i problemi. L'Italia non chiede alcun salvataggio né gli euro bond, dice Monti. Dice ancora il Presidente del Consiglio: c'è soprattutto un modo in cui l'Italia si sta sforzando di contribuire alla stabilità, mettere sotto controllo il disavanzo, ossia il deficit. Ci sarà un avanzo in termini strutturali, ecco perché non presenteremo domanda per lo scudo antispread, non ci troviamo nelle condizioni di Atene e Lisbona. E poi parla della disoccupazione giovanile e della riforma del lavoro. È una cifra chiaramente inaccettabile. L'Italia ha varato faticosamente una riforma del mercato del lavoro che ha particolarmente in mente la sorte dei giovani e dei giovani disoccupati. È una riforma del mercato del lavoro che non ha goduto di molta buona stampa. E io ho la mia personale interpretazione di questo. Come mai una riforma del mercato del lavoro che è stata giudicata molto positivamente da osservatori sofisticati e duri come la Commissione europea, il Fondo monetario internazionale, non ha goduto di molta buona stampa nel Paese? Io credo, lo dico con sereno rispetto delle parti, per due ragioni. La prima, perché semplificando un po' le parti dei datori di lavoro e dei lavoratori, hanno in questa occasione assunto un atteggiamento di desiderio di stravincita da una parte e desiderio di conservatorismo dall'altra, e quindi una soluzione equilibrata che alcuni hanno definito una riforma epocale è stata piuttosto svilita da entrambe le categorie di partecipanti alle consultazioni. E ancora sulla riforma del lavoro e nell'interesse delle generazioni future. Per la prima volta i pubblici poteri in Italia, il governo e il Parlamento, hanno ritenuto di dover responsabilmente, di dover fare questa riforma nel pubblico interesse e soprattutto nell'interesse delle generazioni future, e non hanno lasciato fabbricare la riforma quasi esclusivamente dal consenso concertativo tra le parti sociali, che spesso hanno fatto in passato riforme che li lasciavano più soddisfatti, anche perché il conto veniva pagato dal bilancio pubblico che negli anni ha dato luogo a quel forte debito pubblico che oggi ci impone di dedicare particolare attenzione ai meccanismi di finanziamento del nostro debito pubblico. Chiede Giulio perché al 349-238-6666, perché sono 20 anni che riformiamo e andiamo sempre peggio? Beh, probabilmente perché in realtà abbiamo parlato tantissimo di riforme e poche ne abbiamo fatte, dando l'impressione di riformare. Chiudiamo questa pagina dedicata all'Europa e alle parole di Monti e parliamo di turismo. Perché oggi è stato presentato uno studio, in realtà relativo al 2010, che riguarda la ricchezza creata nel paese dalle attività connesse al turismo, pari a 82 miliardi di euro, ovvero il 6% del valore aggiunto totale dell'economia. Il primo conto satellite del turismo per l'Italia, così si chiama, presentato a Roma dal ministro del turismo Piero Gnudi e dal presidente dell'Istat Enrico Giovannini. Maria Piera Ceci ha intervistato il ministro. Il conto satellite è uno studio che stiamo facendo con l'Istat per calcolare gli effetti del turismo sull'economia. Abbiamo presentato il primo conto satellite che misura gli effetti diretti. Il prossimo anno presenteremo il secondo conto satellite che misura anche gli effetti indiretti del turismo sull'economia. I primi dati però sono interessanti. I primi dati sono molto interessanti, ma saranno ancora più interessanti quando avremo anche gli effetti indiretti che sono assolutamente rilevanti. Le organizzazioni internazionali stimano che gli effetti indiretti siano 1 a 2. Ogni euro speso direttamente nel turismo ha come contropartita 2 euro spesi nell'economia in generale. Sono numeri importanti, il turismo è uno dei primi asset del nostro paese come attività. Poche attività hanno un valore aggiunto superiore al turismo. Il vero problema purtroppo è che in Italia abbiamo considerato sempre il turismo come una cenerentola, non abbiamo mai fatto una politica del turismo come paese e abbiamo purtroppo fatto pochi investimenti. Il compito di questo Ministero è fare un progetto paese, cioè una strategia del paese nei confronti del turismo e presentarlo entro la fine dell'anno. Tornando invece ai numeri, avete calcolato i dati relativi al 2010, che cosa 2010. Ci raccontano? Raccontano che il turismo ha un effetto diretto del 6,6%, che però coinvolge un insieme di attività per il 10%. Gli effetti indiretti sono molto superiori. Grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, Paolo Corleoni in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 17:00.